ad alta voce. Valerio Aprea legge Alberto Moravia. Romolo e Remo. L'urgenza della fame non si può paragonare a quella degli altri bisogni. Provatevi a dire ad alta voce: mi serve un paio di scarpe, mi serve un pettine, mi serve un fazzoletto. Tacete un momento per rifiatare e poi dite: mi serve un pranzo, e sentirete subito la differenza. Per qualsiasi cosa potete pensarci su, cercare, scegliere, magari rinunziarci, ma il momento che confessate a voi stesso che vi serve un pranzo, non avete più tempo da perdere. Dovete trovare il pranzo, se no morite di fame. Il 5 ottobre di quest'anno, a mezzogiorno, a Piazza Colonna, sedetti sulla ringhiera della fontana e dissi a me stesso: mi serve un pranzo. Da terra, dove durante questa riflessione volgevo gli occhi, levai gli sguardi al traffico del corso e lo vidi tutto annebbiato e tremolante. Non mangiavo da più di un giorno e, si sa, la prima cosa che succede quando si ha fame è di vedere le cose affamate, cioè vacillanti e deboli, come se fossero esse stesse appunto ad aver fame. Poi pensai che dovevo trovare questo pranzo, e pensai che se aspettavo ancora non avrei più avuto la forza neppure di pensarci, e cominciai a riflettere sulla maniera di trovarlo al più presto. Purtroppo, quando si ha fretta, non si pensa nulla di buono. Le idee che mi venivano in mente non erano idee, ma sogni. Salgo in un tram, borseggio un tale, scappo. Oppure, entro in un negozio, vado alla cassa, afferro il morto, scappo. Mi venne quasi il panico e pensai: perduto per perduto, tanto vale che mi faccia arrestare per oltraggio alla forza pubblica, in questura una minestra me la danno sempre. In quel momento un ragazzo accanto a me ne chiamò un altro: Romolo! Allora, a quel grido, mi ricordai di un altro Romolo che era stato con me sotto le armi. Avevo avuto allora la debolezza di raccontargli qualche bugia, che al paese ero benestante, mentre non sono nato in alcun paese, bensì presso Roma, a prima porta. Ma adesso quella debolezza mi faceva comodo. Romolo aveva aperto una trattoria dalle parti del Pantheon. Ci sarei andato e avrei mangiato il pranzo di cui avevo bisogno. Poi, al momento del conto, avrei tirato fuori l'amicizia, il servizio militare fatto insieme, i ricordi. Insomma, Romolo non mi avrebbe fatto arrestare. Per prima cosa andai alla vetrina di un negozio e mi guardai in uno specchio. Per combinazione mi ero fatto la barba quella mattina con il rasoio e il sapone del padrone di casa, un usciere di tribunale che mi affittava un sottoscala. La camicia, senza essere troppo pulita, non era indecente, soltanto 4 giorni che la portavo. Il vestito, poi, grigio spinato, era come nuovo. Me l'aveva dato una buona signora il cui marito era stato mio capitano in guerra. La cravatta, invece, era sfilacciata, una cravatta rossa che avrà avuto 10 anni. Rialzai il colletto e rifeci il nodo in modo che la cravatta adesso aveva una parte lunghissima e una parte corta. Nascosi la parte corta sotto quella lunga e abbottonai la giacca fino al petto. Come mi mossi dallo specchio, forse per lo sforzo di attenzione con cui mi ero guardato, la testa mi girò e andai a sbattere contro una guardia ferma sull'angolo del marciapiede. «Guarda dove vai», disse, «che sei ubriaco». Avrei voluto rispondergli: «Sì, ubriaco di appetito». Con passo vacillante mi diressi verso il Pantheon. Sapevo l'indirizzo, ma quando lo trovai non ci credevo. Era una porticina in fondo a un vicolo cieco, a due passi da quattro o cinque pattumiere colme. L'insegna, color sangue di bue, portava scritto «Trattoria, cucina casalinga». La vetrina, anch'essa dipinta di rosso, conteneva in tutto e per tutto una mela. Dico una mela e non scherzo. Cominciai a capire, ma ormai ero lanciato ed entrai. Una volta dentro capii tutto e la fame per un momento mi si raddoppiò di smarrimento. Però mi feci coraggio e andai a sedermi a uno qualsiasi dei quattro o cinque tavoli nella stanzuccia deserta e in penombra. Una stoffetta sporca dietro il banco nascondeva la porta che dava sulla cucina. Picchiai con il pugno sul tavolo. «Cameriere!» Subito ci fu un movimento in cucina. La stoffetta si alzò. Apparve e scomparve una faccia in cui riconobbi l'amico Romolo. Aspettai un momento. Picchiai di nuovo. Questa volta lui si precipitò di fuori, abbottonandosi in fretta una giacca bianca tutta sfrittellata e sformata. Mi venne incontro con un «Comandi!» premuroso, pieno di speranza, che mi strinse il cuore. Ma ormai ero nel ballo e bisognava ballare. Dissi «Vorrei mangiare!» Lui incominciò a spolverare il tavolo con uno straccio, poi si fermò e disse guardandomi «Ma tu sei Remo!» «Ah, mi riconosci!» feci con un sorriso. «E come se ti riconosco! Non eravamo insieme sotto le armi! Non ci chiamavano Romolo, Remo e la Lupa per via di quella ragazza che corteggiavamo insieme!» Insomma, i ricordi. Si vedeva che lui tirava fuori i ricordi non perché mi fosse affezionato, ma perché era un cliente. Anzi, visto che nella trattoria non c'era nessuno, il cliente. Di clienti doveva averne pochi e anche i ricordi potevano servire a farmi buona accoglienza. Mi diede alla fine una manata sulla spalla. «Vecchio Remo!» Poi si voltò verso la cucina e chiamò «Loreta!» La stoffa si alzò e apparve una donnetta corpulenta, in grembiale, con la faccia scontenta e diffidente. Lui disse, indicandomi, «Questo è Remo, di cui ti ho tanto parlato!» Lei mi fece un mezzo sorriso e un gesto di saluto. Dietro di lei si affacciavano i figli, un maschietto e una bambina. Romolo continuò «Bravo, bravo, proprio bravo!» Ripeteva «Bravo» come un pappagallo. Era chiaro che aspettava che ordinassi il pranzo. Dissi «Romolo, sono di passaggio a Roma, faccio il viaggiatore di commercio. Siccome dovevo mangiare in qualche luogo, ho pensato, perché non andrei a mangiare dall'amico Romolo?» «Bravo!» disse lui. «Allora che facciamo di buono? Spaghetti!» «Si capisce!» «Spaghetti al burro e parmigiano! Ci vuole meno a farli e sono più leggeri!» «E poi che facciamo? Una buona bistecca? Due fettine di vitella? Una bella lombatina? Una scaloppina al burro?» Erano tutte cose semplici. Avrei potuto cucinarle da me su un fornello a spirito. Dissi, per crudeltà, «Abbacchio! Non ne hai di abbacchio!» «Quanto mi rincresce! Lo facciamo per la sera!» «E va bene, allora un filetto con l'uovo sopra, alla Bismarck!» «Alla Bismarck, sicuro! Con patate?» «Con insalata!» «Sì, con insalata!» «E un litro! Asciutto, no?» «Asciutto!» Ripetendo, «Asciutto!» se ne andò in cucina e mi lasciò solo al tavolino. La testa continuava a girarmi dalla debolezza. Sentivo che facevo una gran cattivazione, però quasi quasi mi faceva piacere di compierla. La fame rende crudeli. Romolo era forse più affamato di me, e io in fondo ci avevo gusto. Intanto in cucina tutta la famiglia confabulava. Udivo lui che parlava a bassa voce, pressante, ansioso, la moglie che rispondeva, malcontenta. Finalmente la stoffa si rialzò e i due figli scapparono fuori, dirigendosi in fretta verso l'uscita. Capii che Romolo, forse, non aveva in trattoria neppure il pane. Nel momento che la stoffa si rialzò, intravidi la moglie che, ritta davanti il fornello, rianimava con la ventola il fuoco quasi spento. Lui poi uscì dalla cucina e venne a sedersi davanti a me al tavolino. Veniva a tenermi compagnia per guadagnar tempo e permettere ai figli di tornare con la spesa. Sempre per crudeltà domandai: «Ti sei fatto un localetto proprio carino. Beh, come va?» Lui rispose, abbassando il capo: «Bene, va bene. Si capisce, c'è la crisi. Oggi poi è lunedì. Ma di solito qui non si circola.» «Ti sei messo a posto, eh?» Mi guardò prima di rispondere. Aveva la faccia grassa, tonda, proprio da oste, ma pallida, disperata e con la barba lunga. Disse: «Anche tu ti sei messo a posto.» Risposi, negligente: «Non posso lamentarmi. Le mie 100-150 mila lire al mese le faccio sempre. Lavoro duro, però.» «Mai come il nostro.» «E che sarà? Voi altri osti state sul velluto. La gente può fare a meno di tutto, ma mangiare deve. Scommetto che ci hai anche i soldi da parte.» Questa volta tacque, limitandosi a sorridere, un sorriso proprio straziante che mi fece pietà. Disse finalmente, come raccomandandosi: «Vecchio Remo, ti ricordi di quando eravamo insieme a Gaeta?» Insomma, voleva i ricordi perché si vergognava di mentire e anche perché, forse, quello era stato il momento migliore della sua vita. Questa volta mi fece troppa compassione e lo accontentai dicendogli che ricordavo. Subito si rianimò e prese a parlare, dandomi ogni tanto delle manate sulle spalle, perfino ridendo. Rientrò il maschietto, reggendo con le due mani in punta di piedi, come se fosse stato il Santissimo, un litro colmo. Romolo mi versò da bere e versò anche a se stesso, appena l'ebbi invitato. Col vino diventò ancor più loquace. Si vede che anche lui era digiuno. Così, chiacchierando e bevendo, passarono una ventina di minuti. E poi, come in sogno, vidi rientrare anche la bambina. Poverina, reggeva con le braccine, contro il petto, un fagotto in cui c'era un po' di tutto: il pacchetto giallo della bistecca, l'involtino di carta di giornale dell'uovo, lo sfilatino avvolto in velina marrone, il burro e il formaggio chiusi in carta oliata, il mazzo verde dell'insalata e, così mi parve, anche la bottiglietta dell'olio. Andò dritta alla cucina, seria, contenta. E Romolo, mentre passava, si spostò sulla seggiola in modo da nasconderla. Quindi si versò da bere e ricominciò coi ricordi. Intanto, in cucina, sentivo che la madre diceva non so che alla figlia e la figlia si scusava, rispondendo piano: «Non ha voluto darmene di meno.» Insomma, miseria completa, assoluta, quasi quasi peggio della mia. Ma avevo fame, e quando la bambina mi portò il piatto degli spaghetti, mi ci buttai sopra senza rimorso. Anzi, la sensazione di sbafare alle spalle di gente povera quanto me mi diede maggior appetito. Romolo mi guardava mangiare quasi con invidia, e non potei fare a meno di pensare che anche lui quegli spaghetti doveva permetterseli di rado. «Vuoi provarli?» proposi. Scosse la testa come per rifiutare, ma io ne presi una forchettata e gliela cacciai in bocca. Disse: «Sono buoni, non c'è che dire», come parlando a se stesso. Dopo gli spaghetti, la bambina mi portò il filetto con l'uovo sopra e l'insalata, e Romolo, forse vergognandosi di stare a contarmi i bocconi, tornò in cucina. Mangiai solo, e mangiando mi accorsi che ero quasi ubriaco dal mangiare. Quanto è bello mangiare quando si ha fame. Mi cacciavo in bocca un pezzo di pane, ci versavo sopra un sorso di vino, masticavo, inghiottivo. Erano anni che non mangiavo tanto di gusto. La bambina mi portò la frutta e io volli anche un pezzo di parmigiano da mangiare con la pera. Finito che ebbi di mangiare, mi sdraiai sulla seggiola, uno stecchino in bocca, e tutta la famiglia uscì dalla cucina e venne a mettersi in piedi davanti a me, guardandomi come un oggetto prezioso. Romolo, forse per via che aveva bevuto, adesso era allegro e raccontava non so che avventura di donne di quando eravamo sotto le armi. Invece la moglie, il viso unto e sporco di una ditata di polvere di carbone, era proprio triste. Guardai i bambini, erano pallidi, denutriti, gli occhi più grandi della testa. Mi venne ad un tratto compassione e insieme rimorso. Tanto più che la moglie disse: di clienti come lei ce ne vorrebbero almeno 4 o 5 a pasto, allora sì che potremmo respirare. Perché? Domandai facendo l'ingenuo. Non viene gente? Qualcuno viene, disse lei, soprattutto la sera, ma povera gente. Portano il cartoccio, ordinano il vino, poca roba, un quarto, una foglietta. La mattina poi, manco accendo il fuoco, tanto non viene nessuno. Non so perché queste parole diedero sui nervi a Romolo. Disse: «Oh, piantala con questo piagnisteo, mi porti iettatura!» La moglie rispose subito: «La iettatura la porti tu a noi, sei tu lo iettatore. Tra me che sgobbo e mi affanno e tu che non fai niente e passi il tempo a ricordarti di quando eri soldato, lo iettatore chi è?» Tutto questo se lo dicevano mentre io, mezzo intontito dal benessere, pensavo alla migliore maniera per cavarmela nella faccenda del conto. Poi, provvidenziale, ci fu uno scatto da parte di Romolo. Alzò la mano e diede uno schiaffo alla moglie. Lei non esitò. Corse alla cucina, ne riuscì con un coltello lungo e affilato, di quelli che servono ad affettare il prosciutto. Gridava: «Ti ammazzo!» E gli corse incontro, il coltello alzato. Lui, atterrito, scappò per la trattoria, rovesciando i tavoli e le seggiole. La bambina intanto era scoppiata in pianto. Il maschietto era andato anche lui in cucina e adesso brandiva un mattarello, non so se per difendere la madre o il padre. Capii che il momento era questo o mai più. Mi alzai, dicendo: «Calma, che diamine, calma, calma!» E ripetendo «calma, calma», mi ritrovai fuori della trattoria, nel vicolo. Affrettai il passo, scantonai, a Piazza del Pantheon ripresi il passo normale e mi avviai verso il corso.